Marco, capitolo secondo. E dopo alcuni giorni, egli entrò di nuovo in Capernaum, e si seppe che era in casa, e si raunò tanta gente che neppure lo spazio dinanzi alla porta lo poteva contenere. Ed egli annunziava loro la parola, e vennero a lui alcuni che menavano un paralitico portato da quattro. E non potendolo far giungere fino a lui a motivo della calca, scoprirono il tetto dalla parte dov'era Gesù, e fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale il paralitico giaceva. E Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico, «Figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Ora alcuni degli scribi che erano quivi seduti, e così ragionavano in cuor loro, «Perché parla costui in questa maniera?» Egli bestemmia. «Chi può rimettere i peccati se non uno solo, cioè Dio?» E Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che ragionavano così dentro di sé, disse loro, «Perché fate voi cotesti ragionamenti nei vostri cuori? Che è più agevole dire al paralitico, «I tuoi peccati ti sono rimessi», oppure dirgli, «Levati, togli il tuo lettuccio e cammina». Ora, affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha podestà in terra di rimettere i peccati, io te lo dico, disse al paralitico, levati, togli il tuo lettuccio e vattene a casa tua. E colui si alzò e subito preso il suo lettuccio se ne andò via in presenza di tutti, talché tutti stupivano e glorificavano il Dio dicendo, una cosa così non la vedemmo mai. E Gesù uscì di nuovo verso il mare, e tutta la moltitudine andava a lui, ed egli li ammaestrava. E passando, vide Levi d'Alfeo seduto al banco della gabella, e gli disse, «Seguimi». Ed egli alzatosi lo seguì. Ed avvenne che, mentre Gesù era a tavola in casa di lui, molti pubblicani e peccatori erano anch'essi a tavola con lui coi suoi discepoli, poiché ve n'erano molti e lo seguivano. E gli scribi d'infra i farisei, vedutolo mangiare coi pubblicani e coi peccatori, dicevano ai suoi discepoli, «Come mai mangia e beve coi pubblicani e i peccatori?» E Gesù, udito ciò, disse loro, «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non son venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori». Or, i discepoli di Giovanni e i farisei solevano digiunare, e vennero a Gesù e gli dissero, «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano e i discepoli tuoi non digiunano?» E Gesù disse loro, «Possono gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? Finché hanno con sé lo sposo non possono digiunare. Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, e allora in quei giorni digiuneranno. Niuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti la toppa nuova porta via del vecchio e lo strappo si fa peggiore. E niuno mette nel vin nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino fa scoppiare gli otri, ed il vino si perde insieme con gli otri». Ma il vin nuovo va messo in otri nuovi. Ora avvenne che un giorno di sabato egli passava per i seminati, e i suoi discepoli, cammin facendo, si misero a svellare delle spighe, e i farisei gli dissero, «Vedi, perché fanno di sabato quel che non è lecito?» Ed egli disse loro, «Non avete voi mai letto quel che fece Davide, quando fu nel bisogno ed ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? Com'egli sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani di presentazione che a nessuno è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche coloro che erano con lui?» Poi disse loro, «Il sabato è stato fatto per l'uomo, e non l'uomo per il sabato, perciò il figliuolo dell'uomo è Signore anche del sabato».